Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci, le 7:20 minuti, siamo pronti alla lettura dei giornali. Noi vi ricordo che alle 8:30 parleremo di questo strano o non strano sequestro del cassiere di Silvio Berlusconi, con il vostro contributo, anche le vostre telefonate. Poi avremo ospite alle 8:15 il sindaco di Modica, in provincia di Ragusa, dove la polizia ha scoperto che c'è un tasso di assenteismo presunto, eh? Poi saranno le indagini, che può arrivare fino all'85% del municipio. E che succede lì a Modica? Cittadini di Modica, che fate? O meglio, dipendenti del comune di Modica, lavorate? Non lavorate? Lo scopriremo più avanti. Ora andiamo a scoprire la lettura dei giornali, che cosa ci propongono i quotidiani in edicola. In questo mercoledì 21 novembre i titoli intanto sono quasi tutti sul redditest. Redditest, così l'autodiagnosi fiscale. Questo è il titolo del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera invece scatta l'ora del redditest. Repubblica, fisco evade una famiglia su cinque. La Stampa, il 20% a rischio evasione. Libero, i buchi del redditometro. Il secolo XIX, fisco, famiglie nel mirino. Vi ricordo tra l'altro che Attilio Befera sarà ospite di Oscar Giannino alle 9, il capo dell'Agenzia delle Entrate. Poi la vicenda Spinelli, il giornale, nessuno ha pagato il sequestro del cassiere. Per il Fatto Quotidiano invece i tagli del governo, i medici non possono operare, gli insegnanti non possono insegnare. Questo è il titolo di apertura. Avvenire invece sul Medio Oriente, tregua a un passo. Così anche il giorno aspettando la tregua, il manifesto senza difesa, c'è una foto di macerie a Gaza, mentre sul sequestro Spinelli anche l'Unità, Berlusconi, il mistero del video, il Messaggero invece, ecco la stretta anti-evasione sulla stretta ovviamente, dunque il redditest, mentre Pubblico intervista Renzi, mi feriscono gli attacchi sulle Cayman, insomma la volata per le primarie. Voglio partire però da quel micro macrocosmo che è il condominio, croce e delizia, più croce di molti degli italiani, perché, cari italiani, una rivoluzione, una mini rivoluzione c'è stata. Voi magari non ve ne siete accorti, ma ieri al Senato, alla Commissione Giustizia, è stata data il via libera a una modifica dei regolamenti che cambiano in maniera abbastanza sostanziale, dopo 70 anni peraltro, con modifiche al codice civile, le regole del condominio. Allora trovate tutto sul Sole 24 Ore, pagina 6 e 7, ma tutti i giornali dedicano giustamente a questo appunto microcosmo che ci riguarda tutti i giorni, riguarda moltissimi italiani. Molte pagine, per esempio, leggo dall'articolo di Saverio Fossati a pagina 6 del Sole: facilitato il cambio di destinazione d'uso per le parti comuni. Questo è il titolo. È arrivata questa modifica alla Commissione Giustizia al Senato. Che cosa si prevede? Per esempio, nuove responsabilità per l'amministratore che non potrà più ricevere più deleghe, una contabilità trasparente, la possibilità di distaccarsi dal riscaldamento centrale, quindi di fare la caldaia in proprio, l'obbligo per i creditori di rivolgersi prima a chi è in ritardo con le rate e solo dopo agli altri condomini, quindi prima paghino i morosi e poi paga l'intero condominio. Sanzione da 200 a 800 euro per chi viola il regolamento condominiale. Lo stop nei regolamenti assembleari ai divieti di tenere animali domestici. Via libera dunque a cani e gatti, ma scrive la Stampa no a serpenti. Dunque i parenti potete tenerli fuori casa, per legge, lo stabilisce la legge. E poi insomma ci sono tante modifiche. Per esempio, l'amministratore dovrà avere un diploma delle superiori, la polizza RC professionale e dovrà aver seguito un corso di formazione iniziale e quelli periodici, ma se ha già svolto questa funzione per almeno un anno nell'ultimo triennio potrà fare a meno del diploma. Tra i nuovi obblighi dell'amministrazione, quello dell'amministratore è quello di chiedere il decreto ingiuntivo per i morosi entro 6 mesi dal consuntivo in cui si è indicata la spesa. e poi redigere una contabilità trasparente. Si potranno anche modificare la destinazione d'uso delle parti comuni, è una novità importante che apre la strada alla costruzione di box nel giardino o installazione di impianti di cogenerazione nei locali comuni. Insomma, tante regole che anche la stampa mette a pagina 4 e 5 in due pagine, il giornale a pagina 18, così cambia il condominio, animali sempre ammessi, sanzioni ai disturbatori, 200-800 euro per chi viola le regole condominiali. Nel nuovo condominio, infatti, la mette così Repubblica, basta vicini molesti e via libera a cani e gatti. Anche Iena dedica questo la sua rubrica, pagina 3 della stampa. Epoche, grazie al governo tecnico si è finalmente aperta l'epoca delle riforme costituzionali. Il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici. Questo Iena sulla stampa, ma al di là dell'ironia è una modifica importante e trovate tutti i dettagli sui giornali. Modica, per l'appunto, in provincia di Ragusa. Noi avremo ospite il sindaco e Fabio Albanese sulla stampa, pagina 18, dedica mezza pagina al paradiso degli assenteisti. Già li sento a Modica che si arrabbieranno, per carità, sarà una semplificazione giornalistica. Il paradiso degli assenteisti al comune di Modica, 8 impiegati su 10 a giudizio. A processo nella città siciliana per truffa e falso, l'assenteista più organizzato, scrive Albanese, era in grado di entrare nel sistema informatico del comune e modificare l'orario di ingresso e uscita dell'ufficio, anche se quel giorno dentro non ci aveva mai messo piede. Al municipio di Modica non era il solo, secondo la procura, che ieri ha chiesto il rinvio a giudizio di 106 dipendenti per truffa aggravata e falso ideologico, lasciare l'ufficio per dedicarsi ai fatti propri era ormai una prassi consolidata per troppi. Un'inchiesta a partire dal 2009, da segnalazioni indignate di cittadini utenti del comune. E allora ci si è concentrati solo su Palazzo San Domenico, la sede centrale del comune, dove lavorano 126 dei 542 dipendenti. Dunque, fa sapere la procura, l'86% dei dipendenti di quell'edificio non rispettava gli orari di servizio. Il sindaco cerca di fronteggiare anche una grave crisi che ha portato il comune di Modica sull'orlo del dissesto finanziario, teme ora ulteriori danni per l'amministrazione e sarà nostro ospite alle 8:15 per cercare di capire che cosa si può fare di fronte a questo alto tasso di assenteismo di cui parla anche la stampa. Noi ci fermiamo qualche minuto, la pubblicità, il meteo e poi ritorniamo con la politica, il redditest e tutte le altre notizie dei giornali. 24 mattino. Allora, arriva il redditest. Oggi Attilio Befera ne parlerà da Oscar Giannino alle 9. È l'autodiagnosi fiscale. Tutti i giornali oggi sono pieni, alcuni aprono su questo tema. Un redditest che scrive il Sole 24 Ore penalizza le famiglie più modeste. Come funziona? Funziona con un semaforo verde e un semaforo rosso, cioè uno fa il redditest, mettete le vostre spese e si verifica, non è obbligatorio, è uno strumento che viene messo a disposizione dei contribuenti sull'Agenzia delle Entrate, sul sito. Uno mette le spese, che fa? E il reddito, insomma, segue le istruzioni e si capisce in base alle spese che uno fa se sono congrue con il reddito e allora viene il semaforo verde, oppure se sono non congrue con il vostro reddito, c'è qualcosa che non va, esce fuori il semaforo rosso, che vuol dire che avete il rosso in banca? No, vuol dire che appunto le vostre spese non sembrano molto compatibili con il reddito che avete e dunque può darsi che se un domani l'Agenzia delle Entrate viene a vedere questa discrepanza vi possa contestare qualcosa. Ecco, è un modo per mettervi in guardia, dire: oh, come mai mi è venuto il semaforo rosso? C'è qualcosa che non va? Certo, Befera dice devono preoccuparsi solo gli evasori. Il direttore delle entrate minimizza sul redditest, che dice sollecita solo ad adeguarsi al reddito reale. Sta di fatto che sono tutte fatte una serie di simulazioni sui vari giornali. Il Corriere della Sera la definisce una sorta di macchina della verità fiscale davanti alla quale vi sedete e dichiarate le vostre spese e vedete come va a finire. Comunque, ripeto, ne parlerà Oscar Giannino alle 9, in un giorno in cui l'INPS ha certificato che le pensioni di molti italiani sono da fame. Questo non lo ha detto l'INPS, ma viene titolato così da Libero a pagina 6. Tanto che scrive Libero, si torna a fare le colf. Oltre un ex lavoratore su due, oltre un pensionato su due, ha percepito un assegno inferiore a 1000 euro al mese. Questo secondo l'INPS. I collaboratori domestici italiani sono cresciuti del 2,5%, cioè, dice Libero, si torna a fare le colf, perché i pensionati spesso non ce la fanno. In tutto questo, Mario Monti era ad Abu Dhabi ieri, sta continuando il suo giro prima in Oman, in Qatar, in Kuwait, per cercare di convincere anche di vendere il bene Italia agli investimenti esteri. Monti agli investitori arabi ha detto: abbiamo domato l'incendio. C'è però questo racconto di Marco Galluzzo sul Corriere della Sera che vi segnalo, perché inizia così: la domanda di un esponente delle elite degli Emirati è tanto secca da sfiorare l'irriverenza. Ci dia un buon motivo, ha chiesto a Mario Monti, per investire in Italia. Noi oggi lo facciamo in Asia, in Africa, in paesi che crescono a ritmi infinitamente superiori al vostro. E Mario Monti stenta a trovare la risposta giusta, è spiazzato dalla sincerità dell'interrogativo e lo rimarca facendo i complimenti a chi siede a fianco del principe ereditario del ricco stato del Golfo Persico. Ascoltano il capo del governo italiano circa 200 amministratori e professionisti degli Emirati Arabi Uniti, coloro che hanno diretto negli ultimi anni l'esplosione del modello Dubai, e gli fanno domande. Il premier, dopo alcuni secondi di incertezza, risponde in questo modo: non vi sto dicendo abbandonate tutti i vostri dubbi e venite da noi. Vi sto dicendo prendeteci in considerazione, perché l'Italia può garantire ritorni maggiori agli investimenti rispetto ad altri paesi, perché ha un potenziale di crescita maggiore. E scrive Galluzzo: non tutti in platea sono convinti di questa risposta. L'intervento del premier italiano è seguito con estremo interesse, ma anche con tanta diffidenza qui ad Abu Dhabi. Tanto che poi Monti ha aggiunto: noi abbiamo spento l'incendio, abbiamo domato l'incendio in casa Italia, il disastro totale di vedere le fiamme propagarsi nel resto dell'Europa. Insomma, abbiamo rimediato. Ma, racconta Marco Galluzzo, molti degli investitori o possibili investitori che finiscono questo incontro finiscono e dicono: ma non è che ci abbia convinto più di tanto. Certo, la missione è quella di convincere gli investitori arabi che hanno molti soldi di venire a investire anche qui in Italia da noi. Sui giornali prosegue, e noi ne parleremo alle 8.30, tutta la vicenda legata al rapimento del ragioniere Spinelli, il cassiere di Silvio Berlusconi. I giornali raccontano tre filoni. Il primo è quello di chi crede che sia tutto vero e che semplicemente non è stato pagato il riscatto, cioè un sequestro finito bene per i sequestrati e male per i sequestratori, e questo è il filone del giornale, tanto che titola in prima pagina: nessuno ha pagato. Poi c'è il filone dei complottari Pistaroli, in questo sia Repubblica sia il Fatto Quotidiano, cioè a dire: ecco tutte le cose che non vanno in questo strano sequestro. E poi c'è il filone invece che si concentra su questa banda davvero di sbandati, sarebbe il caso di dire. Paolo Colonnello, cronista giudiziario della Stampa, che sarà nostro ospite alle 8.30, a pagina 7 della Stampa, racconta sotto il titolo «Il guastato, il Zanza e gli altri, quei dilettanti diventati banda». Racconta Colonnello: una banda del buco o esecutori di menti raffinate? Il dilemma per ora sembra fermarsi alla prima ipotesi, nel senso che da ieri gli inquirenti sembrano più convinti che dietro il sequestro lampo del contabile di Berlusconi, Giuseppe Spinelli, non si nascondano indicibili misteri, ma più semplicemente i pasticci di una banda che avrebbe tentato il colpo grosso ai danni dell'ex premier senza riuscirci. I banditi, scrive Colonnello, capeggiati dal barese Francesco Leone, detto guastato, il guastato, in un certo senso si commentano da sé, a partire proprio da Leone, che si presenta nel cuore della notte in casa Spinelli indossando le ormai famigerate scarpette da tifoso milanista, dettaglio che lo frega e rivela nel contempo un'assoluta inadeguatezza per un'operazione che avrebbe dovuto portargli 35 milioni di euro. Poi nel reparto menti è tra virgolette, della banda, altro ruolo di rilievo per Alessio Meyer, considerato un noto zanza di Como, ovvero un truffatore, al punto di essere già stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per un giro di auto di lusso, considerato personaggio specializzato in raggiri. Sul suo conto sono stati trovati 8 milioni di banconote facsimile. Come mai? Mistero. Coinvolge nella vicenda anche un suo amico, tale Domenico Papagni, col compito di recarsi in Svizzera come esca per attirare l'attenzione della polizia dotando di 2 buste vuote, mentre lui sta passando con quelle che sarebbero gli 8 milioni veri, ma anche qui si pensa che stesse zanzando anche lui. Insomma, cosa hanno trovato? Peraltro 2 armi giocattolo, non armi vere. L'idea di una banda appunto di sbandati. Certo, i misteri continuano. L'avvocato di Berlusconi Ghedini ha ribadito: non è stato pagato alcun riscatto. Abbiamo denunciato tutto con un po' di ritardo perché c'era paura. Poi la versione è anche perché Spinelli ci ha detto del sequestro in ritardo. Mentre Massimo Giannini su Repubblica in prima pagina fa un'analisi, è il vice direttore di Repubblica, dal titolo Silvio, ragioniere, i banditi, tutti i misteri di un rapimento. Eccolo qui, dunque Repubblica batte il tasto sui misteri, su questo strano sequestro, viene definito lo strano sequestro del ragioniere Spinelli, che sembra il titolo di un romanzo di Gadda. Tutto appare incerto tra la verità e la manipolazione, è l'infinita trama dell'oscura del berlusconismo, dove lo stato di diritto è sospeso e vige l'azione parallela di un ex premier miliardario che paga carissimi i suoi vizi, ricattato, circondato da un manipolo di famiglie fedeli, trafficanti di dossier, avvocati senza scrupoli, poliziotti privati, professionisti dell'estorsione e procacciatori di escort. Così la vede Massimo Giannini su Repubblica. Certo, Berlusconi invece sta in rigoroso silenzio su questa vicenda, racconta La Stampa con Ugo Magri, retroscena e il silenzio amaro di Berlusconi, i dubbi sull'arma del ricatto, un Berlusconi davvero silenziosissimo su questo, ha lasciato campo libero a Ghedini anche col suo partito, non dice una sola parola su questa vicenda, si è mostrato dispiaciuto per quanto successo, cupo di umore ma per nulla scioccato, racconta Ugo Magri, e racconta una fonte del PDL. Una cosa è certa, su questo sequestro Berlusconi ha tenuto un totale silenzio, tanto che è stato il segreto meglio custodito da Silvio Berlusconi in 18 anni, così dice una fonte all'interno del Popolo della Libertà. Libero tuona, Pistaroli scatenati. Qualcuno ha abusato di Spinelli, gli anti-cav hanno le visioni. Scarpe rossonere, banconote, fasulle, la gang del sequestro fa quasi ridere, ma i media di sinistra vedono lo zampino di Arcore. C'è anche questa frase di Bersani, ne vedremo ancora, non è finita qui, sulla quale il centrodestra dice che voleva dire, chiarisca meglio. Insomma, questa vicenda un po' tra la farsa e la tragicommedia e la tragedia del sequestro vero e proprio, ne parleremo di questo alle 8:30. Intanto andiamo a sentire il traffico. Politicamente invece è la settimana delle primarie del centrosinistra, e infatti oggi Matteo Renzi viene intervistato da Pubblico in prima pagina e poi a pagina 2 e 3 ci sono interviste ai vari candidati, Laura Puppato, Bruno Tobacci, Bersani, Vendola. E tra l'altro registro su questo, su Pubblico sempre, che Romano Prodi, sentite cosa ha detto delle primarie del centrosinistra. In un'intervista a Tommaso Labate a pagina 4, meglio qualche dichiarazione, non ho seguito nulla, per fortuna. Ecco, Romano Prodi, il fondatore del Partito Democratico, vuole sapere la verità, fa una pausa, poi scandisce le parole, le polemiche tra Bersani, Renzi, la disputa sui finanziamenti. La verità è che non ho seguito nulla di tutto questo, e per fortuna. Poi Prodi che però dice, certo, andrò a votare sicuramente, ho già preso l'aereo, si trova in Africa in questo momento, ho già preso il biglietto aereo per andare ai gazebo, non dico per chi, ma andrà a votare. Però insomma fa un po' specie sentire Romano Prodi che dice non ho seguito nulla e per fortuna di tutto questo. E dall'altra parte il centrodestra, le primarie sembrano diventate un po' una fiera delle vanità, qualcuno l'ha definita oggi sui giornali. L'ultimo che potrebbe scendere in campo, e sono già 10, 11, 12, è Luciano Silighini Garagnani. Se voi non sapete chi sia, non credo che sia un dramma, perché non è che è una figura centrale della politica, ma Libero scrive a pagina 10: è lo scopritore vero di Nicole Minetti, colui che, grande amico di Nicole Minetti, colui che l'ha lanciata anche nella carriera televisiva a Colorado Caffè. Scrive Libero: di lui non fa parola nessuno, al comitato elettorale parlano di boicottaggio mediatico ai suoi danni, ma tra i candidati alle primarie del PDL è l'unico, garantisce lui ad aver già raccolto tutte 10.000 le firme necessarie. Sta di fatto, si tratta di Luciano Silighini Garagnani, sta di fatto che in realtà le primarie del PDL, così giura il Corriere della Sera in un articolo a pagina 12, probabilmente tra oggi e domani potrebbero anche essere annullate. Questo è il titolo del Corriere: primarie PDL, ore decisive, potrebbero essere annullate. La Mussolini già ha detto non partecipo, si è tirata fuori dalla competizione. Si deciderà entro domani, scrive Paola Di Caro sul Corriere, la sorte delle primarie del Popolo della Libertà. Oggi torna Berlusconi a occuparsi del partito, c'è una riunione e paiono ore decisive. Insomma, questa idea di queste tante, troppe candidature pare non piacciono a Berlusconi, tanto che oggi sul giornale, in prima pagina, anche il direttore del giornale Alessandro Sallusti scrive proprio così: il PDL fermi la giostra delle primarie. Ecco, è lui che l'ha definita una fiera delle vanità nel suo editoriale. 12, forse 15, alla fiera delle primarie PDL i candidati si sprecano, spuntano e scompaiono come funghi. E poi l'invito proprio a Silvio Berlusconi e ad Alfano: meglio pensarci bene di insistere sulla linea delle primarie. Per la verità, l'invito soprattutto Alfano, visto che Berlusconi già ha detto varie volte che queste primarie non gli piacciono. Ecco, questo è quello che è abbastanza chiaro. Io voglio chiudere con una storia che ha lasciato basito me, come ha lasciato basiti tutti coloro che la leggeranno, cioè l'arresto del cappellano di San Vittore Don Alberto Barin, arrestato ieri accusato di abusi sessuali. Tutti i giornali ne scrivono, avrebbe carpito favori sessuali, ci sarebbero anche le immagini, filmati, perché era attenzionato dalla Procura di Milano, in cambio di sigarette, shampoo, dentifrici, cioè quello che sono beni in alcuni casi fondamentali per la sopravvivenza dignitosa in carcere. Lo voglio fare raccontando questa storia non tanto con la cronaca, ma raccontando ciò che ha scritto oggi Adriano Sofri, uno che in carcere c'è stato tanti anni, in prima pagina di Repubblica. Quella pietà nel carcere del cappellano stupratore. Questo è il titolo dell'editoriale di Adriano Sofri, che scrive: ci sono giorni segnati da un destino. Ieri il Consiglio Comunale milanese ha preso la decisione di trasferire la pietà Rondanini nella rotonda del carcere di San Vittore. Ieri è stato arrestato per concussione e violenze sessuali il cappellano del carcere di San Vittore. Un doppio movimento, uno che va verso il carcere e uno che ne è respinto. Nelle sculture di Michelangelo, specialmente dove è più forte il non finito, è un doppio movimento a farsi sentire. La figura vuole uscire dal blocco di marmo, sprigionarsene, divincolarsene, rientrarvi, esserne riassorbita. Qualcuno ha storto il naso di fronte alla decisione del trasloco dal castello sforzesco a una galera, si è spinto fino a immaginare che Michelangelo si rivolta nella tomba. Idea indebita, perché l'autore dei Prigioni fiorentini e di questa estrema pietà che evade dalla pietra e si rifà a pietra, una rotonda di carcere sovraffollato si addice come il più solenne dei templi. Il cappellano di San Vittore avrebbe dunque detto messa ai piedi di quel monumento sublime, gran premio a una scelta umile. Non è stato alla sua altezza, e nemmeno all'altezza propria, di quella dedizione al suo prossimo incarcerato che dichiarava, e magari con una sua storta convinzione. Avrà bisogno anche lui di una difficile pietà. Ma la cattiva notizia che viene da San Vittore non basta a guastare la bella notizia che vi arriva. La differenza la farà uno scopino di San Vittore. Si chiama così il detenuto che spazza il pavimento. Sarà sera, le celle saranno chiuse, ci sarà lui con la sua ramazza e un agente col suo mazzo di chiavi. Guarderanno quel figlio macilento e slogato che scivola giù dall'abbraccio della madre, sembra intanto tornarle in grembo. L'assessore che ha avuto l'idea era mosso da un'ambizione pubblicitaria? Ma la pietà rimessa al centro dell'attenzione rimetterà al centro anche la galera, che in tanti avrebbero voluto sloggiare in qualche ultima periferia per liberarne il cuore della città, farci su qualche affare. Qualcuno si offenderà per quel privilegio impensabile, il più commovente Michelangelo per il posto più infame. Hanno la TV e ora la pietà, i 1600 ammucchiati nello spazio del 500. Ma lo scopino e la gente delle chiavi staranno lì all'ora di chiusura a guardare, ciascuno coi suoi pensieri. Poi se ne andranno a dormire, uno nel suo pezzo di cella e l'altro nella sua branda di caserma, e si addormenteranno con la compagnia che sanno loro. Questo Adriano Soffri, secondo me, è un modo alternativo, diverso, bello per raccontare le due notizie che provengono dal carcere di San Vittore ieri. Una bella per Adriano Soffri, una davvero pessima. Ci fermiamo, Giornale Radio.